Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il mondo del lavoro scende in piazza a Trieste a sostegno dei lavoratori della Wärtsilä. Al corteo, che partirà da Foro Olpiano nel pomeriggio, sono attese oltre 6.000 persone. E questa mattina sarà in città anche il ministro del lavoro Andrea Orlando. Incontrerà i sindacati e i lavoratori che presidiano l'ingresso dello stabilimento dal 15 di luglio. E c'è attesa per i risultati del ricorso presentato d'urgenza dalla regione. Per la prima volta un tentativo di delocalizzazione finisce davanti a un giudice. Le aziende sempre più in crisi per i costi dell'energia, tra annunci sul tetto ai prezzi di petrolio e gas e Gazprom che chiude di nuovo i rubinetti. Intanto Ascom a Pordenone apre uno sportello per consigliare gli iscritti. Anche in regione raccolti pesantemente penalizzati dalla siccità dell'estate. Uno dei settori più colpiti è quello dei cereali e per frutta e vino si stima un calo di oltre il 20%. I vigili del fuoco hanno chiuso il passaggio pedonale sul ponte del canale del Molino di Marano Lagunare. Pedoni e ciclisti prendevano la scossa, ora bisogna capire perché. Un anno fa moriva Attilio Maseri, cardiologo friulano di fama internazionale. Oggi una targa in suo onore sarà scoperta a Cividale e sarà ricordato dagli Atenei di Udine e Trieste. Al via, dopo le polemiche sull'esclusione di musicisti russi, il 41esimo concorso internazionale di violino Rodolfo Lipitzer, che si svolgerà al Teatro Bratuz di Gorizia fino all'11 settembre, ieri la presentazione. Settembre si colora di viola, il colore scelto per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'Alzheimer. Le proposte dell'associazione The Banfield, che a Trieste si occupa da 30 anni di questa malattia. Le 7.19, buongiorno da Alessandra Zigaina e Livia Liberatore. Il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. Trieste 18 gradi e mezzo, il mare quasi calmo con una temperatura di 23 gradi. Pordenone Gorizia 15, Udine 14, Tolmezzo 14 e mezzo, Forni di Sopra 12, Sappada 10, Tarvisio 9, Piancavallo 7, Monte Zoncolan 7 e mezzo, Monte Lussari 7, Lignano 19 e mezzo, grado 19, con una temperatura del mare di 23 e mezzo. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi: al mattino cielo in prevalenza sereno o velato, nel pomeriggio variabile o nuvoloso a iniziare da ovest e sarà possibile qualche pioggia sparsa o qualche locale rovescio temporale. Nella notte tra sabato e domenica possibile qualche temporale sul mare e sulla costa, venti a regime di brezza. Sono attese oltre 6.000 persone questo pomeriggio al corteo di Trieste contro la decisione di Wärtsilä di delocalizzare la produzione di motori navali. Lo spostamento della produzione in Finlandia porterebbe agli annunciati 641 licenziamenti. La manifestazione, che partirà alle 17 da Foro Olpiano davanti al Tribunale, viene considerata nazionale dai sindacati, visto che si sta per aprire una stagione difficile e pericolosa per tutta l'industria metalmeccanica, messa a rischio dai costi energetici e dai rischi di razionamento. In Foro Olpiano, prima della partenza, sono attesi il presidente della regione Fedri, il sindaco di Piazza, il vescovo di Trieste Crepaldi. Non mancheranno i rappresentanti di Confindustria, di Confcommercio, di associazioni e federazioni, ma oggi a Trieste verrà anche il ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando. Alle 11.30 incontrerà i sindacati e i lavoratori dell'azienda che presidiano lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra dal 15 di luglio. Tra questi lavoratori c'è Fabio Canidisek. A lui abbiamo chiesto quali sono le aspettative sue e dei suoi colleghi per la manifestazione di oggi. Le aspettative sono altissime, non rispetto a una soluzione immediata, quanto la dimostrazione che Trieste sul problema dell'industria è viva, sul problema di Wärtsilä Italia è viva e preme sulle istituzioni, che assieme bisogna trovare una soluzione. Quale potrebbe essere la soluzione vista dal piazzale antistante la Wärtsilä? Visto che Wärtsilä non torna sicuramente indietro e ormai ha minato anche la fiducia delle proprie maestranze, bisogna che ci sia un altro industriale, un imprenditore che prenda in mano la situazione attraverso anche le azioni che il governo deve mettere sul mercato in questo momento. alla vigilia di questa manifestazione vengono in mente altre stagioni di lotta lontane a Trieste, quella per la difesa della ferriera nel 94 e per i cantieri San Marco ancora prima nel 66. Ci fu una grandissima mobilitazione popolare. Voi contate su una mobilitazione analoga? Questo sicuramente sì, con modalità diverse, perché quello era un momento di scontro della città contro lo Stato, contro gli industriali. Qua invece c'è la mobilitazione di Trieste per il suo futuro. E se siamo uniti tutti assieme, parliamo di salvare una realtà che è green, che è verde, che è sostenibile, che guarda il futuro, che occupa giovani che sono arrivati a Trieste per formare una famiglia e per formare una storia professionale per sé e per il territorio. Tante le adesioni alla manifestazione di oggi pomeriggio anche dal mondo delle associazioni e dalla società civile. Tra le ultime arrivate in ordine temporale quella delle ACLI del Friuli Venezia Giulia, dell'Azione Cattolica Trieste e del Movimento dei Focolari di Trieste. Anche ordine regionale dei giornalisti, Assostampa Friuli Venezia Giulia, articolo 21 e Circolo della Stampa di Trieste esprimono vicinanza e solidarietà ai lavoratori. E solidarietà arriva anche da Lega Coop Friuli Venezia Giulia, che offre la disponibilità allo studio di eventuali operazioni straordinarie a sostegno della continuità produttiva e occupazionale, come già accaduto nel caso di altri workers buyout di successo in Italia, ovvero imprese recuperate dai lavoratori. Dalla manifestazione ci si attende una massiccia mobilitazione del mondo del lavoro, ma ci sono molte attese anche per i risultati che potrebbe ottenere un esposto presentato dalla Regione sulla delocalizzazione di Varsila. Sentiamo di cosa si tratta. In mattinata alle 11.30 dinanzi allo stabilimento Varsila in Val Rosandra arriverà il ministro del lavoro Orlando, nel pomeriggio il grande corteo di solidarietà con i lavoratori. E su tutto questo la notizia di ieri dell'iniziativa giudiziaria della regione. Per la prima volta un tentativo di delocalizzazione finisce davanti al giudice. Una mossa forte quella intrapresa dall'amministrazione che si giocherà in punto di diritto. Con un ricorso d'urgenza la regione, che è parte nella procedura prevista dalla nuova normativa, ha impugnato la comunicazione di Varsila sulla chiusura a San Dorligo. Al giudice del Tribunale di Trieste i legali chiederanno poi di sollevare una questione di costituzionalità della procedura stessa. Introdotta a fine 2021 con la finanziaria, doveva essere una norma antidelocalizzazione, ma stabilisce un percorso, rileva la regione, senza confronto, oltre che risolutivo in appena 90 giorni. Una sorta di prendere o lasciare, in cui, se ci si accorda, i lavoratori vanno in cassa integrazione, ma solo per un anno, invece dei 24 mesi precedenti, altrimenti c'è il licenziamento. Insomma, come norma antidelocalizzazione, risulterebbe illogica e inefficace. Il giudizio intanto sospenderebbe i termini in corso. I primi due mesi scadono a metà settembre, già la prossima settimana è possibile la fissazione dell'udienza. E il 14 settembre, poi, Varsila ha già un altro appuntamento in tribunale per l'udienza sull'esposto di FIM, FIOM e UILM per attività antisindacale. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. I ministri del G7 ieri hanno concordato sulla necessità di fissare un tetto al prezzo del petrolio russo e altrettanto potrebbe essere deciso per il gas. La risposta della Russia è stata che in caso di un tetto al prezzo del petrolio o del gas saranno interrotte le forniture. Subito dopo Gazprom ha annunciato la mancata ripartenza del gasdotto Nord Stream per problemi tecnici. Ormai per le aziende l'energia è diventato il problema numero uno. A Pordenone l'Ascom ha deciso di aprire uno sportello per consigliare gli iscritti su come risparmiare. L'anno scorso abbiamo ricevuto 1.000 euro di bollette e quest'anno è 5.000. Il caro bollette costringe a soluzioni di risparmio i commercianti pordenonesi. C'è chi chiude prima la sera, chi spegne le luci delle vetrine dopo una certa ora. Alle 8:30 abbassiamo le luci e poi chiudiamo un'ora prima. E anche il condizionatore nelle ore centrali quando faceva più caldo. Sarà brutto da vedere da parte sicuramente della gente che passeggia per Pordenone, però chiuderemo le luci luci sulle vetrine sicuramente. Infatti io quest'estate, invece che tenere fino all'una, ho chiuso alle 10. Da 500 euro che pagavo mensilmente sono arrivato a 1.000-1.100. Insieme con il gas cominciano a diventare 8-9 mila euro l'anno, e per un'azienda così piccola è un guadagno che se ne va. Fortunatamente ho fatto il blocco della tariffa, per cui che vado su o che vado giù pago sempre quello. Questi settori qui non è che si può giocare a luci spente. Il più colpito è tutto il settore food, 30.000 euro la media dell'ultima bolletta dell'energia elettrica per i supermercati rispetto ai 10.000 euro di un anno fa. Per gli alimentari il rincaro è stato del 200%, così come per alberghi e strutture ricettive, fino al 300% per le gelaterie. Soffrono anche bar, ristoranti, negozi. Secondo un'indagine dei consumi energetici di Ascom Commercio, due aziende su 10 saranno costrette a licenziare o a ricorrere alla cassa integrazione. Alcune addirittura a chiudere. L'associazione di categoria invita a rivolgersi allo sportello Energia. Il direttore Luca Penna. Prendete in mano le bollette, venite da noi, informatevi, cerchiamo di capire quali possono essere anche i più piccoli interventi per andare a contenere al massimo quello che è il livello di consumo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un altro problema che ha dominato l'estate è stata la siccità, che ha messo a dura prova il comparto agricolo, facendo calare la produzione anche del 30%. Caldo, siccità e agenti avversi hanno messo a dura prova l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, colpendo pesantemente i raccolti. Dai dati che cominciano a circolare, uno dei settori più colpiti è quello cerealicolo, anche se altri settori come quello frutticolo e foraggeo stanno subendo decrementi di produzione intorno al 20-30%. Daniele Castagna, vicepresidente della cooperativa Granaio Friulano. Gli autunno vernini che abbiamo raccolto a giugno e luglio si sono preservati dalla fase di siccità, le produzioni sono state buone, abbastanza buone, mettiamo così, mentre la qualità, soprattutto riferita ad alcuni pesi specifici, a volte è stata un po' carente. Sulle colture estive, se facciamo riferimento in particolare a soia e mais, è chiaro che la siccità ha avuto un peso enorme. Nel mais, nelle zone irrigue, la produzione si parla di 30 quintali ettaro, se va bene. Nella soia la grande incognita è che danno ha fatto il caldo anche nelle zone irrigue. Qual è la quantità di mais che manca in regione? E io una settimana fa parlavo del 40% di mais assodato in meno, ma credo che un dato più reale sia il 50%. È assolutamente necessario continuare a investire nelle tecnologie per l'irrigazione, raggiungendo anche le zone non servite, continua Castagnavitz, altrimenti nei prossimi anni in certe aree sarà impossibile fare agricoltura di qualità. Ma a destare ulteriore preoccupazione è il settore del vino, dove si stima un calo del raccolto attorno al 20%. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato chiuso il passaggio pedonale sul ponte di recente realizzazione sul canale del Molino di Marano Lagunare a causa di piccole scosse di tipo elettrostatico, segnalate da giorni da diversi pedoni e ciclisti. Scosse simili a quelle che a volte si prendono chiudendo gli sportelli della macchina, subite dai passanti che toccano il passamano in acciaio del ponte. Ieri si è reso necessario l'intervento di chiusura del passaggio pedonale da parte dei vigili del fuoco in attesa di un intervento dell'ARPA per comprendere cause e soluzioni del problema. La campagna elettorale, conferenza stampa di presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia alla Camera e al Senato. L'appuntamento è alle 10.30 a Udine al ristorante Patriarca Dolphin di via Treppo. Saranno presenti tra gli altri il deputato uscente Luca Sutte, il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, candidato all'uninominale del Friuli Venezia Giulia e capolista nel listino del Senato. I comitati a difesa dell'ospedale di San Michele di Gemona scendono di nuovo in piazza con un flash mob alle 10 di fronte all'ospedale per protestare contro la situazione sanitaria del gemonese, definita inaccettabile e vergognosa. Punto centrale delle rivendicazioni è il punto di primo intervento del San Michele, che resta chiuso dall'ottobre 2020. I comitati chiedono che a Gemona venga applicato un articolo del decreto Balduzzi del 2015 che permette la sopravvivenza di piccoli ospedali periferici situati in zone montane e pedemontane. Saranno presenti anche rappresentanti dei comitati di Cividale, Maniago e Sacile. A un anno dalla sua morte, il Friuli Venezia Giulia ricorda Attilio Maseri, cardiologo friulano di fama internazionale che contribuì con generosità al progresso della ricerca scientifica. Prima di morire raccomandò di sostenere le attività e i progetti di ricerca, assistenza e formazione dei giovani, istituendo anche borse di studio per i più meritevoli, volontà che saranno realizzate dall'Ateneo di Udine e dalle cardiologie ospedaliere di Udine e Trieste. Maseri, che lavorò in prestigiosi ospedali e istituti di ricerca degli Stati Uniti e del Regno Unito, oltre che in Italia, visse dal 49 a Cividale, dove frequentò il liceo Paolo Diacono. Proprio l'amministrazione comunale di Cividale ha deciso di dedicargli una targa commemorativa che sarà scoperta alle 12 presso l'ingresso Corte Romana. Lo ricordano anche il direttore e il rettore dell'Università di Udine, Massimo Di Silverio e Roberto Pinton, che parteciperanno alla messa che sarà celebrata alle 18.30 a Persereano di Pavia di Udine. Ma sentiamo un ricordo di Attilio Maseri dall'amico Gianfranco Sinagra, direttore della struttura complessa di cardiologia. Un gigante della cardiologia internazionale che ha dedicato la vita al progresso della conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del merito e dei giovani. L'Università degli Studi di Udine e le cardiologie di Udine e Trieste saranno i vettori che daranno continuità e concretezza alle sue volontà. Al professor Maseri va tutta la nostra gratitudine di uomini, medici e ricercatori. Che medico era? Una persona di grande rigore scientifico e morale, una persona di grande intelligenza, curiosità, un tratto umano estremamente garbato e signorile, un'estrema disponibilità nel trasferimento di conoscenze e nella vicinanza ai giovani, una particolare attenzione ad una medicina capace di coniugare professionalità, avanzamento tecnologico, ma anche attenzione umana ai malati e alle famiglie. Al via il 41esimo concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer, che si svolgerà al Teatro Bratuz di Gorizia fino all'11 settembre. Oggi l'inaugurazione, ieri la presentazione al municipio di Gorizia. È uno dei concorsi più prestigiosi per giovani violinisti, dal quale ogni anno emergono nuovi talenti e futuri concertisti. Sono 61 i concorrenti che si sfideranno alla 41esima edizione del concorso internazionale per violino Rodolfo Lipitzer. Tutti giovani motivatissimi, preparatissimi, provenienti dall'Europa, dall'Asia e dall'America. In comune hanno una grande passione per il violino. Il presidente dell'Associazione Culturale Maestro Rodolfo Lipitzer, Lorenzo Qualli. Il desiderio di vincere un premio importante per essere poi pronti al debutto internazionale come concertisti. Infatti nel passato noi abbiamo laureato dei violinisti che oggi girano sui palcoscenici mondiali di tutti i più grandi importanti teatri, tra cui Stefan Milenkovic, Ara Malikian, eccetera. Abbiamo nomi illustri che sono ormai noti in tutto il mondo. Per la fase finale del concorso i violinisti saranno accompagnati dall'Orchestra Sinfonica dell'Accademia Musicale Mykola Lyshenko di Leopoli in Ucraina. Non ci sarà quest'anno la FVG Orchestra, che ha rinunciato al palco del Lipitzer dopo la decisione dell'associazione di escludere le tre violiniste russe dal concorso. Si sono ritirate di loro iniziativa, erano riammesse. Nell'ambito del premio si terrà anche la 23esima edizione del convegno sul violino, neoclassicismo musicale tra il 1920 e 1930 il titolo. Tra i 18 relatori ci sarà anche Virgilio Zoccatelli, compositore del brano d'obbligo dedicato a Pierpaolo Pasolini. Non mancheranno le presentazioni dei libri che si terranno il 10 settembre al Targowski Dom. Gorizia, Eva Ciucci, GR Friuli Venezia Giulia. E settembre è il mese mondiale dell'Alzheimer. Sentiamo le iniziative proposte dall'Associazione de Banfield. 58 milioni nel mondo, 1 milione in Italia, 20.000, numero calcolato per difetto, in Friuli Venezia Giulia. Sono le persone affette da una qualche forma di demenza, che nel 60% dei casi è la malattia di Alzheimer. Cifre destinate quasi a raddoppiare ogni 20 anni, fino a raggiungere gli 83 milioni nel 2030 e i 152 nel 2050. In tutto il mondo, settembre è dedicato a queste patologie. un mese che si tinge idealmente di viola, come il colore del Non ti scordar di me, il fiore diventato simbolo dell'Alzheimer, e che vedrà l'associazione triestina Goffredo de Banfield, impegnata da oltre 30 anni a sostenere le persone affette da demenza e le loro famiglie, proporre molte iniziative di sensibilizzazione realizzate in collaborazione con diversi enti del territorio. Cristiano Degano, segretario dell'associazione De Banfield. Ci sarà per tutto il mese in tanti bar e caffè il cosiddetto spritz viola. Ci sarà il bus viola che per un mese, il bus messo a disposizione da Trieste Trasporti, percorrerà tutte le strade cittadine facendo presente questo problema e sensibilizzando anche tutti i propri utenti. Le iniziative culmineranno il 21 settembre, quando, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, le facciate del Palazzo del Consiglio regionale a Trieste e quello della Biblioteca Civica di Muggia saranno illuminate di viola. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Al via Maniago oggi e domani la tradizionale manifestazione Coltello in Festa, con la mostra mercato dei produttori locali, a cui parteciperanno 22 aziende del territorio e degli artigiani custom provenienti da tutta Italia. Le coltellerie esporranno la loro produzione in appositi stand collocati lungo le vie del centro e in Piazza Italia per tutto il fine settimana, dal mattino fino a sera. La mostra mercato sarà accompagnata da dimostrazioni, spettacoli e intrattenimento. E torna a Palmanova la rievocazione storica seicentesca in calendario fino a domenica, in cui viene rivissuta la storia della fortezza con la vita delle guarnigioni, gli addestramenti delle milizie, i duelli, le tradizioni e i mestieri. Oltre 1000 i partecipanti in abito storico, in cui si contano 60 gruppi storici provenienti da 15 paesi, dall'Inghilterra alla Slovacchia, dalla Spagna all'Ungheria. Oggi alle 11 l'inaugurazione ufficiale. Torna a Trieste, Pordenone, Gorizia. Per la prima volta anche a Udine lo sbaracco, iniziativa di Federmoda Confcommercio, che vede i negozi proporre sconti dal 40 all'80% per i consumatori per le ultime occasioni di stagioni, con mostra mercato all'esterno dei negozi. A Udine 45 aziende parteciperanno al fuori tutto, a Gorizia circa 40, a Trieste una cinquantina. L'iniziativa sarà anche a Gradisca di Sonso, Tolmezzo, Villa Santina e Sappada. La pagina dello sport si apre con il calcio. Prima giornata di Serie C per il girone A, questa sera alle 21 allo stadio Nereo Rocco, la partita Triestina-Pordenone. La sfida, inizialmente prevista alle 17.30, è stata spostata per agevolare la presenza dei tifosi della Triestina al corteo in sostegno dei lavoratori della Varzila. C'è grande entusiasmo e voglia di iniziare questa stagione, ha detto l'allenatore della Triestina Bonatti. È una partita di grande significato contro una squadra che viene dalla Serie B, siamo determinati a fare una prestazione di livello. Iniziare con un derby contro un avversario così forte ci dà ulteriori grandi motivazioni, in noi ci sono emozione e tanta voglia di fare il risultato, servirà coraggio in campo, spinti dai nostri tifosi che ci hanno trasmesso fiducia ed entusiasmo. La società ha fatto un grandissimo lavoro in questi mesi e ha allestito una squadra importante, così l'allenatore del Pordenone Mimmo Di Carlo. Il basket, il Memorial Paietta ha proposto al Carnera di Udine un confronto tra la Pallacanestro Trieste, che milita in Serie A, e la APO Old Wild, che sarà il via del campionato di A2. È finita 92-72 per Trieste. Il distacco è maturato nella seconda metà di gara, perché i primi 20 minuti si erano chiusi sul 39 pari. La formazione di Legovic è apparsa più pronta sotto l'aspetto fisico. Per Trieste 19 punti di Bartley, 17 di Bossi, in casa APU 19 punti di Gaspardo. Questa sera le finali alle 18.15, APU contro Torino per il terzo posto, alle 20.45 Trieste contro Umana Venezia per il primo posto. E a Lignano, in un altro torneo precampionato, il Memorial Bortoluzzi, la Gesteco Cividale ha perso da Forlì 83-75. Nel pomeriggio giocherà la finale per il terzo posto con Scriglievo. Ancora per il basket, alle 18 al Pala Crisafulli di Pordenone la sfida Nutri Bullet Treviso contro Bulls Kapfenberg. Esordio in campionato per la palla a mano Trieste, che a Camisano Vicentino alle 20.30 sfiderà la polifunzionale l'Arcom Mestrino, in una stagione che vedrà la compagine biancorossa impegnata nel girone A di Serie A2. E da oggi a martedì le Orchette alla Bardate saranno impegnate nelle finali Scudetto Under 18 femminile e ad Avezzano. Le Orchette sono state inserite nel girone A1 insieme a Bogliasco, come Como, Nuoto e Rapallo. scaleranno lo Zoncolan i ciclisti del 58esimo giro ciclistico internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, che affronteranno la salita dal versante di Sutrio. La tappa, la terza del giro, prenderà il via poco prima delle 12 da Pavia di Udine. Dopo 160 chilometri la frazione Regina si concluderà in cima al Monte Zoncolan nel comune di Sutrio attorno alle 16 e dopo 2330 metri di dislivello complessivo. Si tiene oggi a Grado il triathlon olimpico no draft promosso dal circolo sportivo Adria Gorizia Triathlon con 570 iscritti provenienti da diversi paesi europei. La gara prevede 1,5 km di nuoto in mare, 40 km in bici e 10 km di corsa. Partenza alle 12.45. Il percorso di nuoto si svolgerà nel tratto antistante la spiaggia Git. La frazione su due ruote arriverà fino alla località Punta Sdoba di Fossalon. Per la frazione di corsa il tracciato si snoderà tra la spiaggia principale e il centro storico cittadino con arrivo al Parco delle Rose. Al via oggi anche la 24esima edizione del Festival Internazionale di Scacchi Trieste, organizzato dalla scacchistica triestina nelle sale di Mittelkalt. I preiscritti alla manifestazione sono oltre 160 in arrivo da tutta Europa, ma anche dal Canada o dall'India. In programma 5 diversi tornei che offrono la possibilità di giocare a tutti, dai grandi maestri internazionali ai ragazzi che hanno da poco imparato a giocare. Per la giornata nazionale dello sport, oggi e domani, nel centro di Pordenone saranno presenti 60 stand per altrettante associazioni sportive dove provare le diverse discipline sportive e ricevere informazioni sui corsi, sulle iscrizioni e sulle attività in programma per la stagione sportiva 2022-2023. Nell'Arena Cimolai di Piazza 20 Settembre alle 20, gran galà con la premiazione di 400 atleti delle associazioni presenti che si sono particolarmente distinti nella precedente stagione sportiva. Gli spettacoli, si apre la nuova stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste. Il concerto inaugurale di oggi alle 20.30 prevede l'esecuzione di due brani esemplari del repertorio sinfonico tedesco: la Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore di Franz Schubert e la Sinfonia numero 3 in Re minore di Anton Bruckner, detta anche Wagner Symphony perché dedicata a Wagner. Dirige l'orchestra il maestro Hartmut Hanken, considerato personalità di riferimento per il repertorio sinfonico tedesco. Alle 7.44 cominciamo la rassegna stampa, cominciamo dal Piccolo di Trieste che apre con la manifestazione di oggi contro l'annunciata delocalizzazione di Varsila. Il corteo per Trieste, questo è il titolo che sposta l'attenzione dalla singola vertenza alla città intera. Il sottotitolo: la regione porta l'azienda in tribunale, Orlando, chiusura inaccettabile. Accanto nell'editoriale firmato dalla direttrice, Roberta Gianni scrive: la Trieste delle istituzioni e delle rappresentanze ha capito la posta in gioco e ha fatto squadra riuscendo ad accendere i riflettori nazionali. Oggi tocca ai triestini. Nella fotonotizia l'allestimento del palco in Piazza Unità per la manifestazione di oggi, accanto nel colonnino di cronaca, lettere nei cassonetti, postina trentenne denunciata e licenziata, DNA e attacchi di cuore, Trieste guida la ricerca a livello internazionale. Comincia il mese viola, iniziative sull'Alzheimer. Sotto il Rossetti riparte tra grande prosa e stand-up comedy e i 120 anni del tram di Opicina in una mostra. Infine, da segnalare il richiamo ad un articolo sconvolgente di Stefano Giantin che scrive dai Balcani e annuncia l'uscita di un docufilm che rilancia la storia dei ricchi stranieri che al tempo della guerra nella ex Jugoslavia pagavano per poter fare i cecchini a Sarajevo dove uccidevano la gente come in un safari. L'apertura dell'edizione di Gorizia: aumenti fino a 5.000 euro per medici e infermieri, l'adeguamento degli stipendi riguarda il personale sanitario dell'area isontina. La fotonotizia ci riporta indietro nel tempo e annuncia la donata del calcio monfalconese per celebrare il secolo di vita. Apertura sul lavoro per il Messaggero Veneto, edizione di Udine. L'occupazione si ferma, non si trovano specialisti, è il titolo di apertura. Le aziende cercano ingegneri, operai e tecnici. 7 contratti su 10 sono a tempo determinato. La fotonotizia sul caffè, che è diventato più caro. La tazzina al banco costa fino a 1,30 euro. Ancora il caro bollette, poi, ma che stavolta riguarda l'aeroporto di Ronchi. Scalo in crescita, ma la bolletta è quadruplicata. Nella cronaca, addio Gisella Pagano, compagna di Loris Fortuna, artista, regista e scrittrice. Poi, slot machine truccata in un bar in Carnia, sequestro e maximulta. Infine, cade con il monopattino e sbatte la testa, grave, una donna. E ancora, da Udine, dona ai civici musei 5 opere progetto di Raimondo Daronco, il regalo di Alessandra Manin, erede della nobile famiglia udinese. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre con l'indagine Ascom sul commercio. Caro energia, insostenibile, negozi pronti a chiudere. Nella fotonotizia, Papa Albino Luciani, che fu anche vescovo dei Sacilesi, domani sarà beato. Dalla cronaca, fondi dall'Europa, Pordenone l'università diventa campus. A Sacile è scomparso Giovanni Fabrizio, fotografo dell'arte. A Fileo, un colorificio nell'area Cronospan, Picchetti ai terreni. Sul fondo il calcio, Serie C, la stagione parte col derby a Trieste, Pordenone carico. L'apertura del Gazzettino del Friuli, record negativi delle bollette più che triplicati per le gelaterie. L'intero comparto del cibo subisce una mazzata che può arrivare al 300%. L'Ascom presenta uno studio che mette i brividi per l'autunno. C'è chi pensa di licenziare personale o chiudere l'attività. Costi alle stelle, l'assessore vuole chiudere una piscina. A Udine l'ipotesi è chiudere Pradamano per salvare il Palamostre. La decisione sarà presa dalla prossima giunta. E poi botta e risposta tra commercianti e Comune di Udine. I primi chiedono venga tolta la tassa sui plateatici, cioè la tassa per gli arredi esterni. Ma il Comune risponde: non abbiamo risorse per non farvi pagare. La fotonotizia ci mostra due gatti e annuncia una taglia di 1.500 euro per individuare chi ha ucciso un gatto a Tavagnaco con la freccia scagliata da una balestra. Ancora l'infortunio di ieri, fa un volo di 6 metri mentre sistema un palo di telefonia, la prognosi è riservata, riguarda un giovane operaio. Per lo sport, un'udinese fiduciosa all'assalto alla Roma. Stessa apertura per l'edizione di Pordenone del Gazzettino. Poi, sotto il parco aperto, ha vinto la sfida della sicurezza, si parla di Parco Galvani. Infine la fotonotizia è per il Pordenone Calcio, Nero Verdi, stasera il derby d'esordio. Spazio alla manifestazione su Wärtsilä nelle pagine economiche del Corriere della Sera di oggi. Wärtsilä, il corteo geopolitico di tutta Trieste, scrive Dario Di Vico. L'avvertenza ha un valore geopolitico perché lo stabilimento non è in crisi ma viene chiuso per favorire un'operazione di reshoring, scrive l'autore, che riporta in Scandinavia le lavorazioni triestine grazie anche a un contributo statale che, secondo il segretario generale della FIM CISL Benaglia, supera i 100 milioni di euro. Ancora qualche appuntamento di oggi. Il gruppo folcloristico Danzerini Udinesi e Proloco Broblessano presentano il festival Danzando tra i popoli, un fine settimana nel quale si esibiscono gruppi folcloristici provenienti dal Friuli Venezia Giulia, da Molise ed Emilia Romagna. Alle 9.30 la sfilata dei gruppi a Basigliano, alle 20.30 a Blessano l'esibizione di 3 artisti del folklore. Dalle 10 alle 20 al Parco Galvani a Pordenone si svolgerà la 27esima edizione di Hobbiton, manifestazione organizzata dalla società Tolkieniana Italia con il contributo del Comune di Pordenone e la collaborazione con il PAF, Palazzo Arti Fumetto Friuli. Il Parco Galvani ospiterà conferenze su miti, leggende e lingue elfiche ispirate ai racconti di Tolkien, autore della saga del Signore degli Anelli. Tra gli eventi alle 12 l'incontro con il doppiatore Francesco Vairano. Fine settimana conclusivo per la seconda edizione di Vicino Lontano Mont. Alle 9.30 dalla stazione ciclistica di Chiusaforte, una passeggiata a cura della stazione rende omaggio a Pierluigi Cappello, nato e cresciuto a Chiusaforte. Sotto la guida di Fabio Paolini i partecipanti potranno visitare i luoghi cari al poeta. Alle 17.30 a Maiso di Enemonzo la piazza del paese sarà teatro di un altro omaggio, questa volta a uno dei padri della Carnia, Romano Marchetti, con la presentazione del numero 51 della rivista Storia Contemporanea in Friuli. Comincia oggi fino all'11 settembre Trieste Crocevia di Culture, percorso turistico-culturale tra genti, folklore e religioni diverse. La manifestazione, promossa da Alta Marea Eventi in coorganizzazione con il Comune di Trieste e la collaborazione di Promoturismo, si propone di valorizzare con visite guidate, musica, degustazioni e mostramercato la multiculturalità che caratterizza Trieste. Centro delle attività sarà Piazza Ponte Rosso. Il programma di oggi prevede alle 10 la visita guidata al cimitero evangelico, dalle 20:30 concerto di musica anni 80 dei Mixage. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11:30 con l'ottava puntata di Parapapunzi, rivista radiofonica in dialetto triestino realizzata nel 1992 che, nata nel solco del Campanon, ci presenta macchiette triestine o quasi di tutto un secolo grazie alla conduzione di Ruggero Winter e Nereo Zepper, che ne era anche il regista. Mezzogiorno l'appuntamento con Bon Bon, un programma di e con Riccardo Ciconetti e Marco Fornasin, 30 minuti di umorismo in cui succede di tutto e tutto può succedere. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Livia Liberatore, in regia per la parte tecnica Tommaso Vinoni e Giampaolo Zucchi, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito. Un buon proseguimento d'ascolto e ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.